Wall Street, i viaggi del lupo. E iniziamo un'altra bellissima puntata di Wolf Trips. C'è un casino qua in questo studio. Adesso devo mettere un po' di ordine. Cioè, quello che mette a posto le cose, quello che tira fuori la Coca-Cola. Patatine, ma che è stasera? Vabbè, stasera siamo in formazione dai, più o meno normale, sì, ecco. Sì, sì. Abbiamo, io sono Domenico Biancardi alla regia, poi abbiamo Tony dall'altra Ciao. Parte, la Deborah che è nascosta dietro al monitor. E la Cree che è tornata dal veterinario. Dal veterinario. Visto che hai fatto due settimane. Ah, è vero. Due settimane di assenza per veterinario. Ok. Sono quindi tornata. Avevi la giustifica, ecco, mettiamola così. Mancano le nostre, diciamo. No, dobbiamo salutare la social manager, media partner and friends. Katia. Che praticamente ha avuto, diciamo, un incontro diretto con una moto. Però vabbè, nulla di grave, no? Salutiamola e vabbè, dai, si rimetterà. A Genova è successo? No, qua a Milano. Vabbè, nulla di grave, comunque si sta rimettendo. Penso settimana prossima magari Tony. Sì. La ritroveremo tra di noi. Ciao Katia, ciao Sara. E ciao poi a Sara, tutti. Sì, che domani avrà un evento con Bioma Terra domani mattina. Però io pensavo domani sera, in realtà, che è tipo Bioma Quiz o cosa del genere. Una roba. L'avevamo già fatto l'altra volta. Lo fanno in un altro, in un'altra sede, una cosa un po' più carina. Domani io andrò a farmi un giro a vederlo. Pensavo fosse alla sera, in realtà al mattino. Ricchi premi e cotillon. Ci sono ricchi premi e cotillon. Bravissimo. Quindi vuol dire che mi devo svegliare presto anche domani mattina. Sì, più o meno. Vabbè, io direi... comunque devo ringraziare chi ci ha dotati di questi sgabelli, perché sono comodi. Sì. È la prima volta che li testo, quindi... E bisogna tenerli come l'oro. Giusto. Così è stato, queste sono state le direttive della radio e così noi faremo. Quindi direi che iniziamo subito con un po' di musica e partiamo dal genere, Tony. Mi sono andato a fare un po' di ricerche. Questa musica è Ambient Breaks. Un momento. Break, una pausa. In realtà, io quello che ho sempre pensato fosse il downtempo. In realtà, poi andando a fare un po' di ricerca, dato che questo brano mi ricorda molto Moby, tipo Porcelain, qualcosa del genere, il genere giusto non è la downtempo, ma è l'ambient breaks. Si chiama così. Beh, ma ambient, quindi anche rumori ambient. Dell'ambiente. Sì, però essendo che ha un beat che non è, è discontinuo, ha anche questa cosa qua. Io downbeat invece è molto più lineare, cioè. Il downbeat in realtà come genere fisicamente non esiste. È una definizione. È così, sono stato istruito in Va questi bene. Giorni. Poi daremo anche Prendi i contatti, la... eh. Sì, non c'è cazzo da fare praticamente. Bravissimo. Andiamo a ascoltare questo brano che è di Sick Rat con Walk Alone e lui è un DJ italiano, quindi sto già cercando di prendere contatti. Iniziamo così morbidamente. Sarà anche il pianoforte. Sì. E poi incrementeremo man mano. Io mi addormento, eh. No. Why did you engage me? Oh, now don't get burned up. If anyone can keep him off the hot seat, you can. But Louis's in a pretty tough spot. Well, I've seen him in worse. Yeah, I guess you have. Say, I bet I could knock my mother off on the corner of 42nd and Broadway, and you'd make the jury believe I was in Albany. I'm a Norman. No chance. Questa era bella morbida. Bellissima. Era per iniziare questa. Ci sta, sì, ci sta. Ci sta, ci sta. Veramente. È la musichetta sotto. Sì, le olivette, queste cose qua. No, no, ma veramente molto bello. È vero, è vero, è vero. Questi pezzi sono perfetti per iniziare. Per iniziare, infatti, ci stanno, ci stanno. Dai, allora, diamo un po' i contatti. Diciamo un po' chi siamo, cosa facciamo, perché vabbè, esistiamo. Li do io. Vai, vai, vai. Allora, lanciati. Potete trovarci e ascoltarci dal... Qualcuno sta usando qualcosa? Ah no, sono io con la mia applicazione. Ecco, perché stavi provando a fare cosa? Perché Pirlo! Siccome non mi ricordavo il numero di telefono di WhatsApp, ho aperto la nostra te famosissima applicazione. Sì. Che si potete scaricare da Google Play o potete ascoltarci da dal sito di Radio Lupo. Te lo dico io il numero, e WhatsApp per ce lo dirà. 338-222-8983. Giusto. Dai, puoi anche impararlo a memoria, no? No, ma io strano che i numeri me li ricordo, però... Sarà una cosa... Perché WhatsApp è una cosa che non è che amo WhatsApp, tanti, WhatsApp. WhatsApp. Poi comunque abbiamo anche milioni di altri contatti, in realtà, perché ci possono guardare da Facebook tra poco, in realtà, perché ancora non è partita la diretta, che vedevo di... Poi ci si può guardare da... No, guardare da Facebook, ascoltare sull'applicazione della radio, oppure puoi ascoltare tutti i vari podcast che pubblichiamo ogni settimana, barra ogni giorno, perché ogni giorno mettiamo qualche contenuto extra. Che siamo postumi. Siamo, sì, infatti. Va bene, io intanto che vedo che già qualcuno sta morendo di soffocato. Dal postumo e porta avanti col lavoro. Continuiamo sempre con un po' di... Anche se è passato il 2 novembre io continuo. Abbiamo ascoltato quindi prima quel genere ambient breaks, poi vedremo se può essere coerente in realtà. E sempre dalla Dusted Walks, che non ho detto prima che era ormai la linea è quella. Andiamo ad ascoltare questo brano che è dei due Two Bone Giants, che saranno le due ossa giganti, immagino. Io mi sono lanciato in questa traduzione un po' strana. Il brano si chiama Old School, che fa un po' l'assonanza con Old School, effettivamente. Old cool. Old school. Che sarebbe tipo un vecchio una cosa del genere. E invece fa un po' un'assonanza con Old School. Effettivamente il brano è, secondo me, proprio il genere Old School rap. Okay. Andiamo ad ascoltarlo. Thank you. questo sì, dai, era un po' old school, anche se effettivamente non parlava per essere rap. Era un old school muto. Un po' oscura, oscura, sì, old school, un po' oscura, un po' dark. Vabbè, ci sì, lo come old dice, old school darcheggiante, dai. Ecco, sì, dai, vabbè. Un po' tipo le camere oscure, giusto per tornare al nostro discorso. Io non so di cosa io non so di cosa state parlando di là, e non lo voglio neanche sapere. Intanto vi comunico che verso le, diciamo, 8:12, quindi in teoria dovrebbe essere già partita la diretta. Vabbè, adesso vedremo un po' di fare il possibile. Questi potenti mezzi tecnologici ogni tanto ci lasciano dei lati un po' scuri, rimanere appunto, sul tema. Appunto, siamo all'oscuro. Adesso vediamo di risolvere anche questo problema tecnico. Quindi, com'è andata la settimana? Bene, bene, dai. Un po' più carico del solito, no? Stasera sono un po' più carico. Bene, vero? Bene, dai. Forse anche perché stasera abbiamo dei grandi ospiti. Eh sì, io ho letto anche la scheda da ci prefetto. Sono io? Grazie, ci sei tu, grazie, che sei tornata. Grazie. Inoltre dobbiamo presentare l'etichetta 51 Beats che ascolteremo tra un po', magari. 51 Pizze? 51 Beats, okay, lo so che l'orario è quello. Ah, dilla bene, 51 Beats. Bravissimo, ma te sei troppo avanti, sei troppo avanti. Okay. Lui è talmente avanti che se si gira vede il futuro. Mamma mia, quante ne sai. E io direi che possiamo continuare, visto che qua si è creato il gelo. Il gelo. Per rompere un po' il ghiaccio. Stanno passando i pinguini. Andiamo a fare un po' di viaggio. E continuiamo col gelo. Ecco. Andiamo a fare un viaggio nella musica dub con aspetta che lo silenzio, ok? È perché non posso silenziargli il microfono, è qua di fianco. Andiamo ad ascoltare un po' di musica dub con proveniente dall'Italia. Ah, i Giambassa che vengono dall'etichetta A Quiet Bump con il brano Unravel. Featuring Old Hot Drop. Stick together, party's rhythm forever. Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street. Gente, non ce la fa, te lo dico, io te lo dico, sei avvisato. Cosa è successo? Ma non so cosa ha capito. Cosa è successo? No, lascia, siamo in prima fascia protetta. No, mi protetta, sa che è l'effetto dub reg. Sì, non ha attecchito come che vuoi. Che emana visioni. Infatti stavo dicendo, abbiamo ascoltato un po' di brani dub, uno dall'etichetta Quiet Bump e l'altro invece dall'etichetta Dub Phone. E pensa che questo brano Dub è Phone. Dub Phone, Dub Phone. Ed è... Oh, ho capito Babbo Phone. Cioè, hai capito che sono io quello che capisce male. Ma meno male. E pensa che dai, l'artista sarà il venerdì sera, sai. L'artista del pezzo di prima è The Dub Vengian Creator Dub della Dub Phone. Secondo te fa dub? No. Cioè... Com'è che è? Allora, no, allora aspetta. Allora, l'artista è Dub Vengian, Vengians, Creator Dub, l'etichetta è Dub Phone. E Babbo Phone. Sicuramente fa dub. Sono italiani? No. Forse. Ok. Non ci capisco. Forse. No, non penso. I dub. Dub. All dub in the world. Comunque il pezzo me non dispiaceva. No, anche questo senza voce, solo base, non era male. Version. Sì, instrumental version. Ah, okay. Non era male. Version. Ma che dobbiamo prendere una direzione più serie, perché fra un po' abbiamo un'importante intervista. Infatti. Con dei milanesi imbruttiti, dunque. No, non è vero, non è vero. Tra l'altro, sicuramente. Ha fatto la battuta! Che effettivamente abbiamo qua di fianco il. Come si chiama? È presente quello che c'era in scuola di polizia, no? Che imitava i suoni. È e bravo, lo stesso. È veramente così bravo. Infatti, abbiamo lo stesso. Salutiamo la Sabrina che. La nostra milanese imbruttita, ascoltatrice. Adesso ci ammazza tutti quanti. No. Io non c'entro, sappilo. È troppo stretto. Non so cosa vuol dire, raga. Qua va che finiamo male stasera. Siamo partiti veramente. Sono le 8:20. 24. Siamo partiti bene, adesso ci stiamo già arenando. Sai che i due ragazzi dell'area 51 non ci chiamano adesso, non rispondono neanche al telefono. No, andiamo a ascoltarci il prossimo brano e poi dopo li vedo, vedo di contattarli. Il prossimo brano è di Natasha Beller, che abbiamo già sentito, dell'etichetta Block Sonic, e andiamo ad ascoltare il brano che si chiama I'm Shocking. No, I'm Smoking. Sul mio taccuino è scritto I'm Shocking. Ma tieni conto, primo pezzo reggae, la prima cosa che metti dopo è Smoking. Io sto fumando. È stupenda questa cosa. Ti dico, il genere secondo me qua, giusto per ritornare un attimino seri, è New Soul. Okay. Quindi andiamo sul genere. No, andiamo sul genere tipo Duffy o Duffy normale e John Legend per quanto riguarda la parte, diciamo, più strumentale. Andiamo ad ascoltarla, poi rientreremo. Qualche Alicia Keys. Un po' sì. I won't leave up smoking it now, just too late. Thank you. questo era un brano di Anna Sent Ace Cream. Giusto, ho detto giusto, Tony? Tu che giusto, sei il mio giusto. Translate, Google Translate. Anna Sent. Della Anna Sent, Anna Sent. Sì, forse suona meglio così. Dell'etichetta 51 bits, o come dici tu? 51 bits. Adesso dobbiamo rimetterci in contatto con Robidat. Com'è che ha detto che si chiama? Robidat. Robidat. Perché purtroppo è caduta la linea, ma adesso lo recupero subito al volo. E dopo ci presenterà un po' a lui la storia dell'etichetta. Anche se in realtà ci puoi anticipare tu qualcosa, visto che sei, ti eri un po' informato. È un'etichetta nata 10 anni fa, dunque quest'anno sono 10 anni di attività. Sì, ottimo. È nata come Netlabel, ha già pubblicato 2 o 3 vinili. Cioè, per far vedere che comunque si può arrivare anche a produrre qualcosa anche da musica gratis e partendo dalle Netlabel si arriva a fare anche qualcosa in più. È localizzato, cioè è di Milano e poi ci spiegheranno anche il perché il nome. Ok, dai, allora lo, cioè, io l'ho letto. Dunque, va bene, okay. Non fare altri spoiler, mettiamola così. Sennò. Allora facciamo così, andiamo a ascoltare il prossimo brano che è sempre di un loro artista, magari dopo ci spiegano qualcosa in più. E si chiama Marcio McFly con Armadillo. Amanti di Ritorno al Futuro. Sì, anche nella soprattutto nella copertina. Ah, forse l'ho vista. Mr. Marcio McFly, Isaac D. Clan e DJ Alan Man. Ok. E ti racconto un'altra storia. Ok. Apro gli occhi e sono a pezzi, ho mal di testa. Passo il finestrino e fuori un sole che pesta. Scendo dalla jeep e sono ancora un po' brillo. 2 passi sgrano gli occhi e sto davanti a un armadillo. Ma dove cazzo son finito? Qui non c'è nessuno. Mi guardo intorno e vedo solo paglia, sabbia e fumo. Cerco il cellulare per chiamare qualcuno, ma trovo solo del tabacco, allora rollo in colla e fumo. La macchina non parte e mi incammino. Cerco un po' di ombra, ma è solo la mia starmi vicino. Io sto barcollando, forse un'allucinazione, ma sento qualcuno che mi sta parlando. Mi avvicino a quella voce in lontananza. Piano piano prende forma, ma non è abbastanza. Continuo a camminare, in testa questo grillo. Sfrego gli occhi dalla sabbia ed è proprio un armadillo. Tra serpi, falche e coyote, io ho incontrato un armadillo. Armadillo, armadillo. Tra dune, rocce e peggio. Di una strada personale, gli chiedo spiegazioni, lui comincia a cantare, poi mi racconta di un cowboy il suo destino, mi dice che ogni uomo trova dentro sé il cammino. E più parliamo e più comprendo, mentre cala la notte, la luna tra le stelle sta nascendo, ed io a quel punto chiedo come cominciare. Lui chiude gli occhi e nella polvere scompare. Ora sono solo tra dune e paure, anche la luna si nasconde tra il vapore di una nube. Sento respirare sul mio collo un brivido lungo la schiena, ho poco tempo per pensare, corro. La bestia è più veloce, si avvicina, è il momento di affrontarla, non ho alternativa. Respiro e mi preparo, restando tranquillo, mi giro per colpire, ma davanti a un armadillo. Tra serpi, falche e coyote, io ho incontrato un armadillo. Armadillo, armadillo, tra dune, rocce e peggio. Esperienza, affrontare la paura è una presa di coscienza. Siamo noi a creare i nostri demoni. Ora l'hai compreso, continua il viaggio e credici. Apro gli occhi e sono a pezzi, ho mal di testa. Abbasso il finestrino e c'è Marcio sulla mia destra. Accendo la jeep anche se sono ancora brillo. Guardo il ciglio della strada e vedo un armadillo. Tra serpi, falche e coyote, io ho incontrato un armadillo. Armadillo, armadillo, tra dune, rocce e peyote, io ho incontrato un armadillo. Armadillo, armadillo. Bene, bene, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Beh, questo qua era un pezzo un po' particolare, effettivamente, non era male. La copertina, come dicevi, mi ricordava un po' Miami Vice, come... Sì, quella, si chiama Synthwave, che facevamo sentire... Intanto sentiamo sottofondo Roberto, ciao! Dovreste intervistare Marcio McFly per... Lo intervisteremo, la musica è veramente bella. ha un sacco di chicche e di aneddoti rispetto allo sviluppo di questo album. Davvero, davvero, interessantissimo, guarda, un genere particolare. Ah, la panda è sua, ottimo. Non è quella della pubblicità. Non ha esattamente questi colori, ma più o meno. No, è bellissimo, bellissimo, guarda. Anche il brano che sentiremo dopo, io l'ho già ascoltato, mi è piaciuto molto. Presentiamoci. Bene, tu sei Roberto, giusto? Sì. Ok. Sì, esatto. E, no, niente, dici un po' del vostro progetto, della vostra etichetta. Abbiamo scoperto che fate 10 anni, giusto? Abbiamo visto bene. Il progetto è nato nel 2008 sostanzialmente da un'idea mia condivisa subito proprio con Marcio McFly, con Marcello e altri 2 o 3 personaggi che sono ancora ad oggi coinvolti nell'etichetta stessa, che sono Gollywop e Plasman, che dopo, se riuscirà, interverrà anche nella trasmissione. Perfetto. Ed è nata sostanzialmente da un momento di buio che avevo personalmente nel cercare musica di qualità, e avevo ritrovato la luce a quei tempi nell'ambito delle net label, scoprendo diverse net label, soprattutto tedesche, americane. A Quiet Bump, ho sentito prima, avete trasmesso sì, dei pezzi, sì, sì, sicuramente sì. È stata una delle prime a proporre musica di qualità altissima, e avevo diversi amici, tra cui Marcio, uno di questi, che diciamo producevano in casa diversi lavori nell'ambito dell'elettronica, e avendo scoperto il contesto delle net label mi era venuta l'idea di provare ad aprirne una, e così è stato, insomma. Quindi ci siamo messi giorno per giorno a costruire il sito web Fai da Te, che poi ha avuto diversi upgrade, 3-4 upgrade rispetto alla grafica, eccetera, e il riscontro che abbiamo avuto è stato da subito abbastanza importante, soprattutto dagli artisti. Quindi soprattutto nei primi anni abbiamo visto che c'era veramente l'esigenza da parte di tante persone di mettere fuori la loro musica in un contesto che fosse un po', se vuoi, da un lato informale, perché secondo me è stato la prima forza che ha guidato la nascita e lo sviluppo delle net label, cioè un contesto nuovo ed informale dove non si dovesse passare per forza di cose attraverso filtri delle major e anche delle meno major, però che passavano attraverso selezioni e commercialità a diverso spettro, e questo ci ha motivato ad andare avanti. Quindi ad oggi, dopo 10 anni, abbiamo più di 50 opere a catalogo. 55 ho letto. Sì, esatto. È precisino. Ciao, sono Tony. Ma anche perché il numero preciso forse anche io stesso me lo sono dimenticato. E quindi siamo andati avanti un po' così. Poi negli anni le cose sono cambiate tanto, soprattutto nel contesto net label, e soprattutto di recente. Poi qui, anzi, sono io a farvi le domande e chiedervi come la vedete voi, perché dal lato nostro ho la sensazione, a contatto con riviste, comunque situazioni che hanno sempre dato un certo peso alla realtà del net label, un certo calo. Su tutte, la chiusura da parte di Mirko Salvatori su Rockerilla della rubrica Net Label. Sì, sì, ho visto. Motivato anche il sito FMA è ancora attivo, però penso che non è più. Sì, sì. E però sai, nel momento in cui realtà di questo genere come Rockerilla iniziano a realizzare che non penso sia un problema di convenienza, non credo che non gli convenga più, perché non gli è mai convenuto, non sono mai girati soldi rispetto a questa cosa specifica. Ma per esempio Mirko, poi l'ho sentito e sarà poi lui a spiegare le cose, ma sostanzialmente aveva realizzato che il grosso delle opere rilasciate gratuitamente con la pura licenza Creative Commons erano un po' diminuite, se le doveva andare a cercare nei bandcamp privati, nei SoundCloud, eccetera. Noi stessi negli anni abbiamo un po' cambiato il nostro approccio, e magari poi, se vi interessa, ve lo spiego, ma la net label pura, così com'è, come anche noi eravamo nati, forse è arrivato un momento in cui il concetto di net label va un po' discusso. Bisognerebbe partire dall'utilizzatore, capire cosa veramente la gente vuole. Sì, quello è vero, quello è vero. È interessato ad avere opere gratuite, il download lo fa. Noi abbiamo avuto la sensazione che alla fine lo streaming avesse preso, nell'ambito del digitale parlo ovviamente, il totale sopravvento. Quindi licenza Creative Commons con la libertà di poter scaricare, fruire nella totalità di questo MP3, ma questo MP3 qualcuno lo vuole ancora? Sì, è vero, quello è un po' cambiato, quello è un po' cambiato. Però devo dirti la verità, io ho guardato molte net label anche a italiane, straniere, e italiane ho visto che sono un po' ferme, quello sì. Però la qualità di molti brani effettivamente a me mi ha sempre un po' stupito, perché ho trovato sempre della musica di qualità. Ci metti il cuore anche. È vero, è vero, è vero. Forse il fatto di non dare un valore al brano, vabbè, quello forse potrebbe, come dici tu, essere ridiscusso. Però lo streaming, come ormai vabbè, lo streaming è gratuito praticamente ovunque, perché poi lo puoi ascoltare su Bandcamp o su SoundCloud in modo gratuito, quello sì. Però non so, è un po', per me la net label è un po' una specie di sottobosco, ecco, una cosa molto da ricerca. E effettivamente etichette come la vostra, che in realtà riescono poi anche a produrre della musica di qualità, e poi vabbè, creare anche proprio un'etichetta vera e propria è una bella soddisfazione. No, assolutamente, ma noi siamo contentissimi. Scusa, non sento l'altra persona benissimo. No, volevo dire che in Italia comunque è già difficile fare musica, poi anche a gratis. Cioè, no, infatti gli spazi, infatti, poi non ti danno gli spazi, cioè non niente da fare. Ma infatti questo poi è l'altro punto, no? Perché da un lato bisogna chiedersi, almeno noi ci siamo chiesti, non è che sia un obbligo, noi ci siamo chiesti cosa le persone che ascoltano musica regolarmente volessero, non solo da noi ma in generale. Poi nel nostro piccolo abbiamo pensato a cosa potessero voler da noi, e quindi è un po' quello che ho detto prima. Poi c'è l'artista, giustamente investe il proprio tempo, che vuol dire spesso anche denaro, perché può spendere anche del denaro per fare la musica, eccetera, e quindi il fatto di continuarla a dare gratuitamente ha due motivazioni. Ma la prima è che ti volevo chiedere ma anche questa esplosione di tutti questi DJ producer, cioè com'è che tutta la musica la fanno praticamente con due note, cioè anche questo non è che aiuta sicuramente a mettersi un po', mettere la musica più buona, ecco, perché tutti si diventano DJ, fanno produzioni con i vari software, come se fosse come bere l'acqua la mattina, cioè la qualità. Tu dici che schiaccia la qualità, ecco, per moda. Sì, per moda. Quello sì, quello sì. Ascolti, io direi che andiamo a ascoltarci il prossimo brano, che è Gems. Vai. Con il brano The Orion's Wave. Ci vuoi dire qualcosa di questo brano? Ma siamo molto affezionati a James Jonathan, che è un artista di Parigi, perché l'abbiamo conosciuto nel 2010, quindi eravamo freschissimi, avevamo partecipato ai Quartz Electronic Music Awards, lì eravamo stati selezionati in una categoria, abbiamo presentato col nostro banchetto, insomma, la nascita del nostro progetto, e venne da noi proprio chiedendoci, voglio darvi delle cose. Poi, e pubblicammo a suo tempo il suo primo lavoro, e questo è stato il suo secondo su 51 Beats, che abbiamo, diciamo, programmato per i nostri 10 anni in modo super piacevole, perché trovare artisti nuovi, emergenti, anche all'estero, che abbiano creduto in noi è stata sicuramente, ed è una delle più grandi soddisfazioni. Dai, andiamo ad ascoltarlo, poi dopo facciamo ancora due chiacchiere. Vai. Thank you. bella, bella, bella musica, complimenti Robby. Una bella selezione, dai. Complimenti a James. Ma io so che tu hai un socio, no? Come si chiama il nome in italiano? Carlo Plasman. Lui è di Varese? No. No, perché ho letto in una scheda che uno di voi due è di Varese, mi sbaglio. No. No, forse uno si trova al momento a Varese. Non ah, so. Perché sì, ah, ecco. No, ho visto Varese, ho detto strano che non conosciamo qualche persona. Sì, che... perché noi trasmettiamo da Gallarate, ecco. Effettivamente. Piena no, Gallarate, no, dai, diciamo, più o meno lì. Quindi. Carlo è Brianzolo e io nel sud, nella campagna del Parco Sud. Ah, campagna che ci regala sempre soddisfazione, perché noi abbiamo un'altra net label con cui... Quella di Avellino? No, Caserta, non penso che intendesse quello. No, no, ma nel senso che la campagna... Ah, no, in campagna, scusami, volevo fare il serio, ma ho fatto la pacca. No, io avevo capito. È tipo Risaia, quindi è, diciamo, la parte sud di Milano. Vabbè, esatto, tra i due diagonali di quell'area verde sono più o meno lì in mezzo. Sì, il pavese, ho capito. Okay. Va bene. No, avevamo trovato anche dei premi, giusto, sì, Tony? Sì, che lui già diceva prima, ma noi non abbiamo mai sentito parlare, almeno io ignorante. No, vabbè. Cosa sono i Quartz, quei premi che avete avuto ma anche? Ma erano sostanzialmente degli awards che fecero per 5-6 anni, credo, un'associazione di Parigi per gli indipendenti. Quindi era legata a selezionare in differenti categorie, dance piuttosto che pop, eccetera, però solo tra indipendenti. Per quanto possa essere facile classificare gli indipendenti, comunque non è una cosa solo di net label, cioè anche di No, però il motivo per cui io li mandai, allora la cosa bella è che loro ascoltavano, almeno in teoria, poi vai a sapere poi in realtà come venivano fatte le cose, ma ascoltavano solo in cieco, cioè le opere senza sapere chi le avesse mandate, chi fosse l'artista, eccetera. E lo faceva una giuria internazionale che aveva sempre un presidente ogni anno, e per dire c'è stato Alvanotto, Laurie Anderson, quindi personaggi anche di un certo tipo, di un certo calibro, e selezionavano quindi delle opere in differenti categorie che venivano nominate, un po' come le nomination delle manifestazioni simili, un po' più famosi, ma solo per gli indipendenti. E noi per tre anni di fila siamo stati nominati in differenti categorie, la prima volta nel 2010 proprio con Marcia McFly. Andatevi a ritrovare magari sul nostro sito il suo primo lavoro, che era Farsi le foto, un pezzo bellissimo, Squeeze Me, tratto da quell'album lì, fu nominato nelle nuove scoperte, adesso non mi ricordo esattamente come fu identificata la categoria, tutte queste selezioni erano per gli indipendenti, ma espressamente era indicata la parola anche net label, perché quegli anni lì, sono una decina di anni fa, come probabilmente sapete, era un po' il momento caldo, sì, della nascita di questo movimento qui. Quindi io avevo colto questa opportunità, avevo mandato un po' di cose, e per tre anni ci hanno selezionato e nominato in differenti categorie, con Marcia McFly, You Are Here, che avevano fatto il primo album con noi, un trio di Roma che adesso un po' cambiato, è tornato un trio eccetera, però sono cambiati almeno uno dei tre componenti, è cambiato, e però fanno regolarmente lavori eccetera. E poi con il Leprotto, anche sì, se non ricordo male, nella categoria dance. E poi purtroppo i corsi non sono più stati fatti, però diciamo che dal 2010 al 12-13 siamo stati a Parigi per ben tre volte in fila nell'ambito di queste nomination. Beh, poi in realtà non abbiamo mai vinto, purtroppo. Vabbè, ma l'importante è partecipare anche, no? Sì, beh, anche perché partecipare voleva dire essere comunque selezionati tra i primi, cioè in ogni categoria ce n'erano 5-6. C'è, poi in un bel teatro, in posti a Parigi bellissimi che cambiavano ogni anno, eravamo tutti lì, e solito format, no? C'era la persona con la busta e The Winner is, e vabbè, The Winner is non siamo mai stati, ma è stato... Sono stati trasmessi da qualche canale, qualche... Come? Sono stati trasmessi da qualche canale, da qualche... Ma allora, beh, in Italia ovviamente no. No, beh, ma in Italia queste cose è proprio... Sì, si è provato, qualcuno ha provato a fare cose simili, ma sì, insomma, mai avuto questo... Allora, lì il riscontro era positivo, cioè mi ricordo durante il giorno prima della festa serale, insomma, aprivano dei mercatini, una volta in un teatro, un'altra volta in uno spazio associativo gigante, una volta nella Borsa, la Bourse di Parigi, quindi posti belli, bellissima, dove la gente entrava gratuitamente, noi eravamo lì a esporre, vendevamo le nostre opere fisiche, magliette, gadget, qualsiasi cosa, e poi la sera c'era la festa, il gala, diciamo. Ma peccato, poi non si è più fatto. Peccato che non li fanno più, effettivamente. Non è siamo rimasti un po' in contatto con la persona che aveva ideato queste cose, perché siamo rimasti in amicizia, però sì, purtroppo non l'hanno continuata, l'hanno fatta per... Noi siamo stati 3 anni e credo abbiano fatto 5-6 edizioni, perché era già qualche anno che lo facevano. Ho capito. Un'esperienza sicuramente bella, positiva. Io intanto direi che volevo provare a sentire anche il tuo socio Plasman e andiamo a ascoltarci adesso un altro brano di Marcio McFly, Mentre Dormi, e niente, io ti saluto allora, magari ci sentiamo più avanti per qualcos'altro. Vi anticipo che non sono sicuro che Carlo riesca a rispondere. Va bene, noi comunque continuiamo comunque a mettere la musica che c'hai un po' selezionata e proposto, e sicuramente ci sentiremo più avanti, magari possiamo dire dove lo possiamo trovare. Sì, giusto, Robby, dove ti possiamo trovare? Suonare? Ma più facile che venga io da voi, magari una volta in cui domani mattina ho un aereo presto, quindi era impossibile. No, ma dico anche in generale in locale. Infatti. Facciamo un po' di pubblicità. Allora, come serata ultimamente non siamo molto attivi, per diversi motivi, quindi un po' difficile, però dovesse capitare su Facebook, i nostri canali pubblicizziamo sempre tutto, quindi le cose sono sempre di pubblico dominio. Però una prossima volta ci terrei a venire anche da voi, scambiare due chiacchiere. Quello noi siamo sempre disponibili. Poi siamo a due passi, dai, non è lontano Milano. Sì, no, oggi era proprio difficile logisticamente. Ah, non c'è problema. Abbiamo questi potenti mezzi. Torno nella campagna e basta. Domani mattina con un volo alle 7 era impossibile. Va bene. Noi ti salutiamo, niente, ti ringrazio. Ragazzi, grazie. Ciao. A voi. Ciao. viaggi del lupo. Abbiamo ascoltato un po' di brani sempre dell'etichetta 51 Beats. O come la dice Tony? 51 Beats. 51 Beats è più bello. Ma tu mi dicevi, Tony, che queste che avevi trovato il perché si chiamano 51 Beats, giusto? Se ho capito bene, perché era scritto in inglese. Dai, vediamo cosa hai capito. È dedicato a un ex locale, non so se esiste ancora, l'area 51 di Milano. So che esisteva. Esisteva. Poi e loro facevano una festa, mi sembra Roby. E allora per distinguersi, una sorta di dewi, non è sorta di dedica o ricordo del locale, quindi. È per dire che loro erano il suono di quel party lì. Ok, all'area ok. City, all'area 51, scusa. Allora, il pezzo che avevamo ascoltato, non mi ricordo, aspettate un secondo perché poi dopo tra mille cose, era di Cryon Mortal, Everything Has to End. Has to End Somewhere. Era un titolo abbastanza complesso, ecco, mettiamo così. Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano che ci aveva proposto Roby dell'etichetta sempre dei 51 Beats, che è di Trasha. Trasha col brano, con il pezzo che si chiama Frames. E purtroppo non si è riusciti a sentire l'altro socio, ma magari recupereremo un'altra volta. Va chi bene. Lo sa, dai. Sì. Niente, con questo concludiamo un po' la parte dedicata alla 51 bits. Salutiamo ancora Robby e speriamo di avercelo. Ciao Robby. Di averlo qui nei nostri studi presto, dai. E io voglio salutare anche Daniele. Chi è Daniele? Daniele. Ma come fu? Io voglio salutare Katia che mi ha scritto quello salutami. Di essere all'osteria. Sì, infatti. Quello che fa il programma del Nerd Corner. Nerd Corner, sì, il Daniele Civelli. Sì, sì, salutiamolo, sì. Che lo sento voglio spesso. Voglio salutare perché mi ha scritto su WhatsApp. Su Facebook. Su Facebook. Ricordiamo il nostro WhatsApp. 338-222-8983. Sì, abbiamo Tony stasera. No, tu volevi il palo, è giusto? È lanciatissimo, guarda. Tu volevi il palo, giusto? E lui sta iniziando a ballare. Sì, manca ma il palo. Era l'idea che volevo io. Daniele, se stai guardando la diretta, salute alla tua. Ciao. Sì, infatti qua ormai c'è il delirio stasera, un po' come al solito. Ti diciamo che quello che vogliono. Sì, diciamo la prima ora è andata bene, la seconda ho paura. Inizia il delirio, dai, inizia ufficiale. Già scricchiolava, però dai, abbiamo avuto dei buoni ospiti, della bella musica, quindi ci siamo trattenuti. Però adesso diciamo che diamo sfogo a tutte le nostre cose. Lasciamo giusto Fabio? L'ignoranza, esatto. Proprio che padroneggio in questa sera. Quanti d'ora di puro follia. Bene, bentornato Fabio, bentornato tra noi. Buonasera a tutti quanti. Era qui da tipo un'ora, però in realtà non riusciva mai a parlare, quindi facevo il disturbatore, fumavo, mangiavo, sempre... bevevo. Eh sì, perché stasera è stato offerto delle buone patatine e della buona Coca-Cola da sì, Tony e la Debora. Così comunque, che c'ho le braccine corte. Comunque, io vi devo dire una cosa, io abolirei la Coca-Cola in radio. Poi sì, non vi dico nient'altro. Però comunque grazie lo stesso, perché ci vuole qualche burpa al microfono. Ecco. Per il resto vabbè. No, perché se comunque te bevi la birra non è la stessa cosa. Anche, ma infatti ci vorrebbe acqua naturale, acqua naturale. Okay. Oppure diciamo super alcolici pesanti, così almeno eviti di avere problemi. Ma tu problemi. Sei un salutista. No, è che poi sai la Coca-Cola alla radio non va bene, no, non è bello. No, adesso volevo introdurre perché stavo pensando oggi, perché poi sai che io quando sono in treno così nei miei ma momenti tu dormi quando ma sei io in mentre treno. Dormo penso anche, no? E tu sei assolutamente, ma tu sei anche tipo vegetariano, vegano? No, però mi mangio le cose vegetariane, non dispiace, no? No, se ti svelo questa cosa. Vero, oggi stavo sono buonissime. Pensando. Cioè, no. Le mangio, poi mangio una bistecca, non è che dici, cioè. Io mi chiedevo, no? Tipo, a volte vado al supermercato e cioè, guardi, cioè, senza glutine, senza olio di palma, senza senza conservanti, senza questo, senza quell'altro. E mi mangio la scatola vuota? Sì, infatti, cioè, infatti. Tutti questi salutisti, no, guarda, sì. Il pH della pelle, 5.5. Vabbè, ti svelo un segreto. Ho fatto partire la prossima canzone perché questo discorso... pensavo che come me ti lavavi col balsamo al posto dello shampoo perché costa meno. Ha fatto la battuta. Thank you. che avevamo in sottofondo è un brano della Cold Terra Rec che non abbiamo ancora mai ascoltato. Il brano è la prima volta. Prima volta. Even Chord con Cosmos. Di dov'è questa etichetta? Etichetta non me lo ricordo di dov'è, non me li fa. Ah no, no, Lituania. No, aspetta, no, me l'ero segnato. Signori, me l'ero appuntato sul mio taccuino qua. Sul libro nero. Io ringrazio la Lituania perché sforno ogni anno grandissimo. Della buona musica. E delle belle ragazze. Vabbè. Io avevo la perla, ve la dovevo dire. Vabbè, lo sapevamo. Allora dici anche dove vai dopo. Ragazzi, ecco. Non c'entra con la Lituania, non fate brutti pensieri. No, infatti, detto così non è molto bello, sembrerebbe diciamo un po' equivoca la cosa. No, vabbè, intervento. Adesso ti devi togliere dall'impasse e dirci dove vai dopo. E invece teniamo l'impasse tutta la puntata. Secondo voi? Secondo voi, prendiamo il suo sondaggio, dove può andare Fabio dopo? Non è bello, nemmeno è andata così. Ha fatto la battuta! Ecco. Ma che battuta? Infatti non è una battuta, è una schiacciata. Che è roba? È un sondaggio. Ma questo disturbatore da quando è che c'è? Ma infatti! Esce fuori un nome adesso, è una garanzia, vorrei dire. Adesso spiego in realtà a quelle poche persone che abbiamo in studio, visto abbiamo sempre qualcuno in studio, abbiamo anche il disturbatore che mette delle voci a caso, dei jingle a caso, che non c'entrano niente con quello che stiamo dicendo, no? Però vabbè, è divertente anche così. Io direi che dimmi tutto. Nel momento che ho alzato il dito, poi ho avuto il cervello che si è scollegato. Ti stavo dicendo qualcosa. Io non passerei dopo la prossima canzone. Andiamo a ascoltare la prossima canzone, che a quest'ora viene sempre un po' fame quando passiamo questo artista, dato che è Gabriel Vittel e non Tornat. E il brano si chiama Quiet Sometime. E caro Tony, caro Fabio, questo qua è un brano dell'etichetta Brook. Tanto voi caro. Basta. Quelle sono, how are you? Etichetta della... Ma salutiamo Brook, ragazzi. Ciao Brook. Si è sposata ancora? Sì. Ancora con Ridge. Una roba incredibile. Di nuovo. Sì. Ma non era ragazzi, morto, guardate scusate. Su internet quanti matrimoni ha fatto Brook. Con Ridge. No, con tutti, cioè. In generale. Ma anche col regista, se non è sposata. Comunque, vi volevo avvisare che è ripartita la diretta Facebook. E caro Daniele, mi dispiace, ma quando ci sei tu non si mangia, è così. Poi lui è già cresciuto, che bello. Infatti, cioè. Ciao, intanto Dani. Volevo salutare di nuovo Katia che continua a dirmi salutami, ma è la terza volta che la saluto, quante volte devo salutare? Ancora? Saluta. È dall'inizio che la stiamo salutando. Potremmo fare un nuovo programma che invece che saluta Antonio saluta Katia. Eh beh, perché già Antonio c'è già. Ah, poi dobbiamo salutare tutte le nostre amiche del no, dopo quello è il, diciamo che è il tuo spazio. Dopo certo, saluta anche tutte qualche messaggio in esclusiva. Bravissimo, ragazzi. Abbiamo anche chi ha creduto veramente che allora, settimana scorsa abbiamo fatto praticamente dei saluti random, cioè casuali. Tipo c'era salutiamo Flauzia, salutiamo Isotta, sì, cose così. Ed erano casuali. In realtà qualcuno ci ha creduto e ha detto: ma chi sono quelle persone? Senza indicare, visto che stiamo facendo la diretta Facebook, non indichiamo. Però non lo vedrà nessuno. Però. Intanto già lei non si vede, non è che. No, comunque poi rispondiamo a Fauzia perché. Fauzia, cos'è che ti ha scritto? Dopo ve lo dico. C'è scritto: voleva il contatto di noi tre maschietti. E vediamo le donne con i coltelli. No, Madonna. Questo era bello. Bellissimo, rimandate. Bellissimo. Il primo che mette giusto. E a tempo. Che è la cosa più importante. Vero. Ma scusa, non è che lì c'è scritto mi si chiama il Gobo. No, il Coca-Cola, non era c'era quello lì con il Cuba Libre, non è che era un Cuba Libre quello. No, a me non piace. Perché da quando abbiamo bevuto quella roba lì, secondo me questo è Coca Rum, Infatti. No. Tra l'altro è di Babbo Natale, quindi non si sa. Fra poco, Fra poco. Mi fa venire l'ansia però. Wolf Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Torna venerdì Wolf Trips. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi. Per due ore di musica underground. Per il guaio. Questo tizio qua diceva per il guaio. Ah, quindi la combinata grossa. Che in realtà il... Allora, si chiama Patient... come si dice? 36. Ah, non lo so. 36. 36. Ehi, ma no, in tedesco. Lo devi dire in tedesco. In tedesco non lo so, però il titolo in tedesco è Für das Unheil. In tedesco, sono tedeschi questi. 36. Ecco, ya, ecco. Comunque l'etichetta è sempre Brooke. E lui nel non dubbio, ha trovato il... Nel dubbio, Azor. Bravissimo, Lisio. Solo per ora. Non l'ha trovato per ora. E tra l'altro stavo dicendo, vabbè, etichetta Brooke del 2018. L'album ha un nome, ha un titolo impronunciabile che è Einkleiner Toll, che lo sono andato a tradurlo e vuol dire un po' di morte. Adesso vabbè, ok, non lo so perché. Diciamo che il bancone non fa vedere, ma ci stiamo toccando tutti direi, quanti, direi. E noi abbiamo fatto la puntata il 2 novembre, dunque era sta... giusta per il 2 novembre. Vabbè, è andata così. È andata un po' così, che vi devo dire. Beh, siamo in tempo ancora. Però il pezzo era bello, mi piaceva. Tu sei arrivato alla fine, ma era bello carico. Non era male, questo non era è proprio berlinese, cioè. Questo sì, questo sì, è vero, sì, vero. Berlin Calling. Berlin Calling. Bravissimo, bravissimo. Questa è una chicca, ragazzi. Vai, vai. Berlin Calling. ha tirato fuori la chicca la ragazza. È vero, che poi in realtà è London Calling. Lo so. Questo però. È Berlin Calling. Grande è... pezzo dei Clash. Sì, sì, sì, giusto, giusto. Anni 70, penso. Più o meno. Ma sì, lei non pensò che citava forse il film. Non no, Berlin no. Calling è un film, effettivamente. Di Paul Bremer. Paul Bremer. Di chi è questo? Tu l'hai anche visto, perché l'abbiamo visto con i nostri amici. Questo film qua. DJ che diventa famoso. Poi era uno dei film crisi. Preferiti di e Peppe. Ma chi ha chiesto il telefono? Per Dindirindina, come Paolo direbbe Merci. Qualcuno dei Simpson, ecco, mettiamolo così. La mia luce è fissa, quindi no. No, devo salutare Simone che ieri si è esibito a Electronic Moody. E visto che ci sta ascoltando, gli volevo dire, non è che questo è tuo? Non so di chi è, una roba molto particolare, carina. Se è tuo, dimmelo che te lo facciamo riavere. Ecco, mettiamolo. No, io l'ho già messo in macchina. Ecco, cavolo. Infatti, era proprio per questo. Dicevo che per evitare queste cose che volevo. Ma chi è grosso? È lì, è impacchettato. Ma no, dai, poi è un bravo ragazzo. Lui ha suonato drum and bass, bass, new bass, qualcosa del genere. Non so, electro bass, house bass, non lo so. Bass. Sicuramente non era. E io potevo suonare quella roba lì. Infatti, è una cosa che potremmo suonare anche noi. No, non esiste electro bass. Va bene. Quindi, Fabio, ti sono arrivati dei messaggi particolari. Ma io, però, volevo salutare Ettore. Ettore? E Achille dove l'hai lasciato? E anche Falco volevo salutare. Ma gli piaceva a lui piace colpire sui talloni a Ettore. Sì. E lui quel bastardo di Achille che tutte le volte, cavolo, si prende una tallonata in faccia. Cioè io dico, oh, ma sono uno ma non lo so, cioè veramente. Pensa che una volta si erano innamorati tutti e due di una ragazza. Ma chi? La Elena. La T. Io posso salutare qualcuno? Vai. Saluto nessuno. Ah, giusto per rimanere in tema. E chi saluta uno? 100.000, non so cosa state dicendo. Stai dicendo cose a caso. È la cultura. Ecco, qui ci uno, stava. Nessuno è 100.000. Sì, quello l'avevamo comunque, capito. Io devo chiedere a Sabrina di mandarci la sua idea di cosa farà Fabio dopo. Queste no, che sono cosa capite. Vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa farai Fabio dopo? Ah, dopo? No, aspetta. Ah, no, ci spoiler. Devono dire... la Sabrina sto aspettando che ci dica, scrivicelo al 338-222-8983 o sui social. Ok, ci voleva qua la sigla tipo di Vita da Strega per Sabrina Vita da Strega. Ok, vabbè, ho detto una cosa proprio nerd. Attenzione. Comunque, volevamo salutare anche Falco. Ma perché? D'Aquila, ciao. Continuiamo con un po' di musica, va che è meglio. Questo era un brano della Placid Records. Stasera ho messo un po' di etichette diverse, dai. Nuova, bravo. Un'altra etichetta nuova. È bello che non le annunci neanche, le dici dopo. Lo dico dopo, mi piace di più. Almeno uno rimane un po' nella suspense. Sì, nel mistero. Come la questione che ancora non abbiamo risolto di dove andrà il nostro. Dove mandiamo Fabio? Sto notando una cosa: che Wolf Trips si fa proprio tutta la vita di Fabio. Sì, bravo. Cosa hai fatto la sera? Cosa hai mangiato? Sei fatto la cacca? È perché sei una persona interessante. Fabio, ti sei toccato in settimana. Cioè, tutte queste cose qui. Ragazzi, apro un blog. Che cosa fa Fabio? Vi posto tipo. No, una rubrica. Una rubrica. Una rubrica, una rubrica con due B. Vi racconto la vita di Fabio. Le vabbè. Perle di saggezza. E Fabio Stories. Le pirla di saggezza, come dico io. No, no, più tardi vado a Milano. Sì. Con mio amico. Sì. E tu mangia, fa... tu mangia. No, cartoffen sta mangiando. Madonna mia. E siccome lui deve fare delle foto per questo evento, andiamo a vedere le ragazze che fanno la danza del ventre. Ah, vabbè. E quindi diciamo che sono stato invitato come rappresentante del mondo maschile tra una selezione di 500 Miss Mister Universo. Sei stato ma qui devi far partire la cazzata. Ha cioè, fatto te lo sei... la battuta. Oh, eccolo qua. Deve ci vuole il quid, come reattivo, si dice. Però che gli hanno spiegato che le danzatrici del vete sono 60 anni. Vabbè, dai, ragazzi. Siamo di bocca buona. Allora, su. Ascolta. Io voglio delle foto. Io voglio delle foto che pubblicheremo sull'Instagram. E tra l'altro, adesso Katia ha aggiornato anche l'Instagram. Andate a vedervi la stories che ha fatto. E vedo anche delle foto con tre facce. Mamma mia, sembra che vi hanno ricercato da qualche parte. Vabbè. Ma cosa sta combinando Katia? Ha messo un po' di stories. Vai a vedere sull'Instagram di Wolf Trips. Tra l'altro volevo dire che effettivamente io avevo detto prima Sabrina vita da strega, ma lei ci ha risposto. Cos'è che ci ha risposto? Sabrina vita da milanese. E quindi è proprio una milanese imbruttita. Imbruttita, la gnagna, come dico io. Che c'è il grano e spende se espande. Ecco. C'è tanta gente che ci sta guardando male. Sì, dietro di noi. Male. Dietro di te, guarda. No, ma quando dici così che c'è il fattore di fare tac Rolex, tac. Guarda, ascolta, tac. Fabio, ti posso promuovere a Jingle Man. Che non è Jingle Bell, ma è Jingle Man. Jingle Man, Jingle Man, bro. Cioè, un Jingle Man umano. Vabbè, visto che mi dite che non annuncio mai i brani, andiamo ad ascoltarci questo brano che è di Ader Acid con Crackin' Light, che si chiama lui, che è un brano acid. Crackin' Light. Crackin' Light. Why? Proprio di acidi, cioè non che ci facciamo gli acidi noi, la musica che era. A me mi ricorda molto la musica che c'era tipo metà 2005-2006, sì, House. Sì. Cioè, un po', vero. Sì. Intanto ti dicevo di andare di là, però devi venire di qua, però andare di là alla fine se ne andrà. Adesso prendo quella porta e vado via. Infatti, ti dobbiamo salutare. Infatti, vedi, ti hanno sparato, come si suol dire. Torna anche Tony. Eccolo qua. No, niente, quindi ti salutiamo. Abbiamo lanciato il sondaggio su Instagram che ha fatto la nostra Katia di dove andrà a finire Fabio. Anch'io vorrei sapere da Katia dove ha recuperato quella foto col mio, che stavo suonando, aveva un plettro in bocca. E praticamente o andrà a mangiare. E meno male che era il plettro, ti ha preso con il plettro. La mia paura è questa. Io molte foto non so chi le fa. Cioè, ho paura di alcune foto che circolano su internet. Con i 60 anni dopo, da domani. Ragazzi, non sono io in quelle foto. Se sono scandalose, non sono io. Ma è Tony, ingrassato. Sembri un po' spiritato in questa foto, devo dirti la verità. Tra l'altro c'è anche una musichetta che è Goblin Profondo Rosso. Cioè, proprio, guarda, è una genio, cosa. Katia. Ha fatto proprio una cosa geniale. Un genio del male. Vabbè, però. Quindi adesso ti salutiamo e ci ritroviamo con te settimana prossima. Ma se mi volete, vengo. Ma sì, che ti vogliamo. Cazzarola, ero già pronto a pigiare. Ci porteremo qualche nonna, non so. Ma. Vabbè, guarda, ragazzo mio, le tengo io, se sono buone. Ma poi ascolta. Come le chiami? Come le chiami poi? Tesoro, no? Con R e Moscia. Ma ascolta, ma non dovevi iniziare non dovevi iniziare la sessione di cene invernali? Allora, sì, diciamo che una l'ho paccata. Meno male. Per ovvi motivi. Ma ne ho curate due o tre. Sai, le cene degli amici, sì. Le cene aziendali, quello che non vedi. È vero, come l'anno scorso. Sì, lui sparisce dalla circolazione perché praticamente non è che va in letargo, no, va alle cene. Oh, e io non pago a cena, cioè, non è che io pago per tutti. Per me lo troveranno in qualsiasi barriera della zona di Milano. O vengo qua la prossima volta con la dentiera attaccata al pantalone. Vabbè, il rossetto in faccia. Direi che allora attendiamo trepidanti la puntata di settimana prossima per capire come ti troveremo. Sempre se sarà ancora. Se ti troveremo. Magari se settimana prossima lavora l'Inps, che ne sai. Cioè. Vabbè. E allora niente, in un dai. Circolo. Io dopo ti dirò il risultato del nostro sondaggio, che tra l'altro al momento è stabile 50-50, quindi o vai a mangiare o vai a fare il disturbatore, non si sa. Io farò il disturbatore. Farai il disturbatore poi mangiando. Poi conoscendomi che sono un grandissimo rompiballe, guarda, tempo 3 minuti mi hanno sbattuto fuori dal locale. Fai il disturbatore mangiando, mettiamolo così. Allora no, a parte i scherzi, adesso devo fare un po' di saluti veri. Dai, vai. Allora, volevo salutare... cazzo, mi sono segnato a casa. Allora, la mia amica Materrese Emanuela, nome e cognome, questa è vera. La salutiamo, ho detto che se veniva in radio la salutavo. Sì. Poi volevo salutare il mio amico Diego, Michele Bellora, che diventerà papà ad aprile, che è una bellissima bambina. Quindi facciamo gli auguri anche alla bambina. giù le mani. No, no, tranquillo, non è mia, tranquilli, posso testimoniare, quel giorno era messa, come si dice. Cos'è che eri? Era messa. Guarda che tu non la vedi, ma io qua sopra ho un'aureola. Sì. E se guardi ancora bene, mi spuntano le ali. No, ti spunta qualcos'altro in questo momento. Ti sta spuntando qualcos'altro. E poi dopo, altri saluti? Non ce li hai? Vabbè, volevo salutare mio fratellino. Ok. Che io non lo vedo. Ciao, Felice. Sì? Ciao Fe. E poi vabbè, no, adesso gli altri li fermo la settimana prossima, sono in ritardo, sono tutti bene. Quanti perché devo fuggire. Con tutti quelli che ti conosco. Un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Va bene, ciao. Va bene. Andiamo ad ascoltare il prossimo ciao, brano, Fabio. Intanto salutiamo Fabio. Ciao. Ciao. Questo brano della Subbass, che l'artista SPCZ, la dico così, Islands, vai di... Sigla! Yeah! Wall Street, i viaggi del lutto. Anche oggi tra mille peripezie e cose angoscianti e ancora non è finita, perché mancano gli ultimi tre minuti, che in realtà dovremmo fare molto veloce perché dobbiamo lasciare la linea dopo. Mamma mia. Allora, niente. Ringraziamo. Sì, ringraziamo. Chi ringraziamo? Da Roberto. Ah sì, giusto, i nostri ospiti di questa sera dei 51 Beats, visto che l'ho detto anch'io. Anche l'altro ragazzo che non siamo riusciti a contattarlo, ma vabbè, comunque lo salutiamo e speriamo magari di averli anche qua nel 2019, che sembra una cosa lontanissima, in realtà mi sembra. Poi salutiamo Fabio che stasera si è fatto, diciamo, il mazzo. No, lui si è fatto il mazzo a cercare di gestire i jingle. Vabbè, con calma vediamo di mettere a posto questa cosa. Qualcosa è stato anche apprezzato. Possiamo superare anche quelli del lunedì. No, spero di no. Il nostro è un po' più un humor secco, mettiamola così. Sì. Sì, sì, sì. Vabbè, l'altro Fabio l'abbiamo già salutato, direi basta. Basta, ha rotto le balle, basta. Falino. Ha detto di chiamarsi Lino, quindi Falino. Ah. Tu lui hai detto, mi chiamavano anche Lino, allora Falino. Come vuoi. Vabbè, dopo questa possiamo anche chiudere. No, ma tanto stiamo chiudendo, quindi voglio dire. Vabbè, ciao Fabio, ciao Deborah. Io mi saluto da solo, salutiamo la Cri, Tony, la Deborah, ce l'andiamo a mangiare. Salutiamo direi. Chi ci ha sentito. Buon appetito, io c'ho fame, ciao. Salutiamo chi c'ha, salutiamo chi ci ha sentito, ascoltato e visto su sull'applicazione, diciamo, di Facebook. Possono anche riascoltare su Spotify. Giustissimo, iTunes, importantissimo, Spreaker, dove cavolo volete. Poi perché ovunque. Cloud. Ah sì, ovunque, dove cerchi Wolf Trip, sì, c'è ovunque. Siamo come il prezzemolo. Ma peggio, peggio. Siamo nell'aria, come una scorrezza. E dopo questo direi che ci sentiamo veramente settimana prossima. Ciao. Ciao.